Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Desidero adesso rivolgermi soprattutto ai giovani. So bene che la vostra dignità è legata anche al lavoro. La vostra è la generazione più istruita rispetto a quelle che vi hanno preceduto. Deve esservi assicurata la possibilità di essere protagonisti della vita sociale. Molti di voi studiano o lavorano in altri paesi d'Europa. Questa spesso è una grande opportunità, ma deve essere una scelta libera. Se si è costretti a lasciare l'Italia per mancanza di occasioni, si è di fronte a una patologia cui bisogna porre rimedio. I giovani che decidono di farlo meritano sempre rispetto e sostegno. E quando non si può riportare nel nostro paese l'esperienza maturata all'estero, viene impoverita l'intera società. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prima puntata del 2017 che si apre con le parole del recente messaggio di Capodanno del presidente Mattarella, davvero esplicite e molto condivisibili. Qui aggiungiamo quelle di Papa Francesco. Abbiamo condannato i nostri giovani a non avere uno spazio di reale inserimento perché lentamente li abbiamo emarginati e costretti a emigrare o a mendicare occupazioni che non esistono, così il pontefice. Oggi, prima puntata per il nuovo format della trasmissione che riparte con tante novità. La prima la potrete gustare già oggi, la vecchia rubrica Contro Esodati, nata per raccontare le storie di chi sceglie di tornare nella penisola con un progetto professionale, si allarga conquistando l'intera prima puntata del mese. Non finisce qui. Se continueremo prevalentemente a raccontare storie di under 40 espatriati, introdurremo una specifica sezione dedicata agli studenti delle scuole superiori o universitari che trascorrono mesi di formazione in altri istituti o atenei esteri. Non dimentichiamo che proprio in questi giorni si festeggiano i 30 anni dell'Erasmus. Facciamo tutto questo convinti che sia sempre più necessario riportare la complessa realtà di un mondo globale dove l'obiettivo verso cui tendere anche in momenti storici così difficili resta quello della circolazione dei talenti. Cercheremo di offrirvi insomma gli strumenti pratici per potervi muovere e lo faremo anche con una nuova rubrica bimensile in collaborazione con Eures che vi segnalerà le ultime offerte di lavoro in Europa. E ora allacciate le cinture per la prima puntata dell'anno di Giovani Talenti. Si parte! Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del presidente INPS Tito Boeri. L'Italia è il triste primato in area OCSE di lavoratori collocati nel posto sbagliato. Questo è uno spreco di capitale umano. Se riducessimo il mismatch, la produttività del lavoro crescerebbe del 10%. Tra le cause, puntualizza Boeri, la scelta dei corsi di laurea con poco mercato, la contribuzione salariale che non premia i laureati, il salario d'ingresso per i laureati, conclude, è di poco superiore ai diplomati ed è di 1.000 euro, pari al 30-40% in meno rispetto agli altri paesi europei. Chiosa Boeri, se la cosiddetta fuga dei cervelli è fisiologica in un mondo globalizzato, bisogna anche incentivare il controesodo. Già, proprio il controesodo di cui vi parleremo tra pochissimo. Prima iniziamo l'anno con degli spunti di riflessione che ci arrivano dalla 50° rapporto Censis. Per la prima volta i figli saranno più poveri dei genitori. In Italia, insomma, si registra il KO economico dei millennials che hanno un reddito inferiore del 15% rispetto alla media dei cittadini e una ricchezza familiare che per i nuclei under 35 è quasi la metà della media. Nel confronto con 25 anni fa rispetto ai loro coetanei di allora, gli attuali giovani hanno un reddito inferiore del 26%. Per la popolazione complessiva il reddito si è ridotto solo dell'8%, per gli over 65 è persino aumentato. Aggiungiamo che, secondo la prima nota congiunta di Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL, le tendenze nel mondo dell'impiego registrano sì più contratti, soprattutto a tempo indeterminato, ma in progressiva frenata sulla spinta ridotta degli sgravi per le assunzioni stabili e anche più voucher. Soffrono soprattutto i giovani, tra le under 35 scende l'occupazione mentre sale tra le over 50, come d'altronde confermano gli ultimissimi dati Istat, la disoccupazione degli under 25 si attesta al 39,4%, in aumento di quasi 2 punti percentuali. Ora la storia della settimana, per la prima volta Giovani Talenti la dedica a chi ha scelto di tornare in Italia dall'estero, sfidando condizioni non esattamente semplici. Una volta che si lascia l'Italia, si va in un paese appunto estero, si pensa di aver trovato l'Eldorado, mentre in Italia c'è questo leitmotiv di un'Italia che è vecchia, che va male, e quindi lasciare l'Eldorado per tornare in questo paese secondo me è stato più coraggioso. Simona Moracchioli, 32 anni, è una start-upper controesodata. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziari. E per inaugurare il nuovo format di Giovani Talenti vi proponiamo subito due strumenti che possono risultare molto utili a giovani intenzionati a fare esperienza all'estero: il Servizio Volontario Europeo ed Erasmus+. L'Agenzia Nazionale Giovani ha reso noto che lo scorso anno sono stati oltre 12 milioni i fondi europei impegnati. Per il 2017 sarà approntata anche l'app ufficiale dell'Agenzia. Tutte le informazioni su come partecipare a questi progetti da Giacomo D'Arrigo, direttore dell'Agenzia Nazionale Giovani. Il Servizio Volontario Europeo è una delle misure, diciamo, contenute dentro Erasmus più Gioventù. Forse l'esperienza più forte sul tema della mobilità, sul tema dell'acquisire competenze andando all'estero. È una misura che permette ai ragazzi di stare fuori per un tempo che loro stessi scelgono, con massimo di un anno, 2 mesi, 6 mesi, un anno, nel settore che loro stessi scelgono, con l'obiettivo, Servizio di Volontariato Europeo, di utilizzare questo, il periodo che lo appunto scelgono per fare un'esperienza all'estero, con tutto ciò che questo comporta, non soltanto imparare una lingua, ma acquisire competenze, acquisire skill, conoscere una realtà. Chi può farlo e come candidarsi? Possono farlo tutti quanti i ragazzi tra i 18 e i 30 anni. L'agenzia ha il compito di accreditare gli enti incaricati di che possono ricevere o inviare ragazzi in Servizio Volontario Europeo. Poi la scelta di dove andare, in quale settore, in quale struttura è lasciata alla libertà dei singoli, e quindi possono scegliere non soltanto il paese ma anche il settore, anche l'organizzazione, che sia un'associazione, un ONG, un ente pubblico, un privato, dove appunto spendere questa esperienza. E poi c'è Erasmus Plus, il nome è molto conosciuto, ci riporta anche all'università se vogliamo, ma adesso è un po' più complesso e forse può essere utilizzato da una fascia più ampia. Sì, l'obiettivo di Erasmus Plus Gioventù è proprio questo: permettere anche a chi non è all'università o chi non ha un percorso accademico, scolastico tale, di non essergli precluso la possibilità di utilizzare i programmi europei di scambio di mobilità. Quindi è un programma molto più forte e inclusivo da questo punto di vista, sicuramente. Anche soprattutto chi sta in zone disagiate o chi, non, ripeto, per scelta propria non ha potuto fare il percorso universitario, comunque può fare un'esperienza di scambio di mobilità, e anche questo su progetti che arrivano dal basso, quindi principalmente da associazioni e da enti locali, in settori che si scelgono liberamente, e anche questo è l'obiettivo comunque generale di permettere un arricchimento di competenze che poi sia utile ai ragazzi nel loro percorso di vita. Anche qui è importante spiegare come potersi candidare, a chi ha anche i requisiti per poterlo fare. Sì, Erasmus Plus è una platea abbastanza larga, dai ragazzi tra i 13 e i 30 anni. Chiunque può presentare un progetto all'agenzia, ci sono 3 scadenze l'anno, febbraio, aprile e ottobre. Se il tuo progetto, la tua proposta progettuale viene bocciata, non è la dannazione eterna, ti arriva una lettera che ti specifica il perché il progetto non è passato, e quindi hai la possibilità di affinarlo, aggiustarlo, correggerlo. Tutte le info su www.agenziagiovani.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Italia. Eh sì, perché da quest'anno raccontiamo per esteso anche le storie di chi sceglie di rientrare nella penisola con un progetto preciso. Nome: Simona. Cognome: Moracchioli. Età: 32. Città di origine: Ortonovo, provincia di Spezia. Studi: ingegneria. Anno in cui sei tornata in Italia: 2015. Per andare dove? Vicino a casa. Perché? Per tornare, perché volevo lavorare in Italia. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono responsabile di produzione in una multinazionale. Dove? Vicino a Lucca. Resterai? Chi lo sa? I can make you feel sensation, take you to your destination, take you to the point of no return. And if you make the right decision, free your mind and see the vision, take you to the point of no return. Point of No Return Century, eppure per te, Simona, c'è stato il punto di ritorno, e per me oggi essere tornata in Italia è fonte di grossa soddisfazione. La considero di gran lunga la scelta più coraggiosa che abbia mai fatto, di gran lunga più difficile quella di partire incosciente, spensierata 8 anni fa. Così c'è scritto Simona. Allora, può suonare come uno straordinario paradosso quello che ha inviato Giovani Talenti @radio24.it, perché, ti chiedo, ci vuole più coraggio a tornare che non a partire? Perché una volta che si lascia l'Italia, si va in un paese appunto estero, si pensa di aver trovato l'Eldorado, mentre in Italia c'è questo leitmotiv di un'Italia che è vecchia, che va male, e quindi lasciare l'Eldorado per tornare in questo paese secondo me è stato più coraggioso. Indubbiamente. Partiamo dagli inizi, studi ingegneria industriale tra l'Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna. A posteriore, come giudichi la qualità della formazione ricevuta in Italia? Perfetta, ottima, assolutamente superlativa. 2 gennaio 2009, facendomi strada attraverso quasi un metro di neve, ho iniziato a lavorare per una società americana vicino a Colonia, in Germania. Ricordi, dalla fine degli studi erano passati poco più di 2 mesi. Quale motivo ti ha spinto a lasciare l'Italia in così poco tempo? Avevo voglia di un'avventura e volevo mettermi alla prova in un altro paese dove non conoscevo nemmeno la lingua. In Germania dovevo rimanere 2 anni, alla fine sono diventati 7, ma è stata l'esperienza più forte, bella e importante della mia vita, riassumi. E di cosa ti sei occupata in questi anni oltre confine? Sono diventata project manager in questa multinazionale. Che ambiente di lavoro hai trovato in Germania, Simona? Efficiente e meritocratico, come viene spesso dipinto? Assolutamente sì. Perché? È una società molto aperta, senza differenziazione tra uomo e donna, dove chi sa fare bene va avanti. Per chiudere la parentesi tedesca, cosa consigli ad aspiranti emigranti in Germania? Quali mosse non sbagliare? Di non sottovalutare il fatto che sebbene sia in Europa, la Germania è un paese molto diverso dall'Italia e bisogna essere pronti ad accettare le differenze. Arriviamo al punto che davvero ci interessa nella tua storia. Alla soglia dei 30 anni scatta in te qualcosa che ti fa decidere che è il momento di tornare a casa. In quell'Italia che chi continuava a viverci ti descriveva come un paese per vecchi. Allora, quale molla ti ha portato a fare questa scelta controcorrente? Avevo voglia di mettermi alla prova nel mio paese perché non ci avevo poi in realtà mai lavorato. Simona, hai beneficiato degli incentivi fiscali per il rientro? E se sì, quanto sono stati poi determinanti nella tua scelta? Sì, ho beneficiato e sono stati poco determinanti, però sicuramente nel momento in cui ho accettato un contratto italiano mi hanno fatto comodo. E al di là del lato nostalgico, alla base del tuo ritorno c'è anche un progetto ben preciso che hai condiviso con un gruppo di amici, quello di creare una vostra startup. Ci spieghi brevemente il progetto Ittiamo? Sì, Ittiamo è un progetto che va alla ricerca dei piccoli produttori enogastronomici italiani e cerca di portarli online per essere accessibili, per avere accessibilità da parte di tutti per i loro prodotti. Simona, anche i tuoi colleghi sono ex espatriati come te. Da dove sono rientrati, per la precisione? Da Parigi e da Bangkok. Che Italia hai scoperto, allargando un po' la prospettiva, al tuo ritorno, sfatando magari anche alcuni luoghi comuni? Un'Italia viva, molto più viva di quello che pensavo, soprattutto nella parte imprenditoriale e nella parte appunto start-upara. Simona, il paradosso, se vogliamo, in questa storia è che dopo un controesodo, proprio la vostra startup vi sta riportando all'estero, ma da conquistatori stavolta, e per la precisione a New York. Come sta andando il progetto Ittiamo? Benissimo, è fonte di grossissima soddisfazione perché i nostri piccoli produttori ad oggi commerciano negli Stati Uniti grazie a noi. E tra l'altro tu non ti occupi solo di quello, ma sei anche un'assunta presso una società. È stato facile trovare lavoro? Inizialmente no, c'era molta diffidenza sulla mia scelta di ritornare dalla Germania in Italia, ma poi alla fine ce l'ho fatta. Allora Simona, per te la nuova domanda di rito dedicata a voi controesodati: l'Italia può essere salvata dai suoi talenti di rientro e se sì, come? Può essere salvata dai talenti di rientro, ma anche da chi è rimasto. Insieme si può fare la differenza, secondo me. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente e in alcuni casi rientrati. In questa puntata parliamo infatti della vicenda di Simona Moracchioli, 32enne startupper controesodata in Italia. Simona sceglie di tornare nella penisola dopo ben 7 anni in Germania. Lo fa sfidando lo scetticismo di chi le dice che questo ormai è un paese per vecchi, senza speranza. Lo fa portando qui un progetto di impresa innovativa che condivide con colleghi ex espatriati come lei. Ittiamo, questo è il nome del progetto, è una realtà in ascesa che dall'Italia si sta espandendo, ironia della sorte, proprio all'estero. La storia di Simona dimostra quanto i nostri giovani espatriati possano rivelarsi un loro aggiunto se la penisola li reinserisce come risorse. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Ci raggiungerà in linea Alessia Marsigaglia dell'Associazione di Talents. Buon pomeriggio Alessia e ben ritrovata soprattutto. Grazie, grazie ancora dell'invito Sergio, buon pomeriggio a tutti. Tra l'altro ti ritroveremo anche nei prossimi mesi e sempre più spesso per commentare insieme storie di controesodati che hanno scelto di tornare nella penisola e che tu stessa con l'associazione Italens ci hai segnalato. Perché Alessia, la storia di Simona ti è sembrata così paradigmatica? Sicuramente il fatto che Simona è partita e tornata per scelta, poi è una persona piena di entusiasmo e ha messo l'entusiasmo sia quando era fuori Italia e entusiasmo e coraggio quando è rientrata. Mi è piaciuto inoltre il fatto che abbia deciso di tornare mettendosi già alla prova e creando appunto con i suoi compagni di avventura una startup che ha poi avuto il successo meritato. Mi sembrava un'ottima storia costruttiva per iniziare l'anno, insomma. Allora Alessia, a inizio dicembre l'associazione Italens ha organizzato il consueto incontro annuale con i giovani italiani all'estero, per la prima volta è avvenuto fuori dall'Italia a Bruxelles, un centinaio le persone presenti. Quali sono le proposte che sono emerse in quel contesto dai giovani che all'estero ci vivono? Sì, è stato un Italia molto, molto di successo per la prima volta, come hai detto tu, all'estero, e già si parla di nuovo di un Italia tal Bruxelles per il 2017. Diciamo che grazie all'organizzazione anche della neopresidente Eleonora Voltolina è stato ampio il parterre di ospiti. Si è parlato davvero di tutto, sia dalla voglia di questi expat di essere attivi e partecipi da un punto di vista sociale, politico, economico anche all'estero e per l'Italia. E poi si è parlato di come enti come la Camera di Commercio Belgo Italiana o associazioni come la Comune del Belgio abbiano attivato veri e propri servizi a disposizione di chi decide di trasferirsi all'estero. Poi si è parlato molto anche di sussidiarietà verticale, anagrafe unica, l'idea di un contratto di lavoro europeo dove le qualifiche professionali siano riconosciute allo stesso modo da tutti i paesi. Insomma, argomenti veramente ambiziosi. E c'è un mondo soprattutto di espatriati che ribolle di idee e di proposte che voi state indagando. Alessia, c'è anche un altro tema che vorrei rapidamente toccare con te, quello degli incentivi fiscali per chi torna in Italia. A fine anno c'è stato un loro potenziamento ulteriore, passato a dire la verità un po' inosservato anche a causa della crisi di governo. In modo sintetico ci puoi spiegare quali sono i benefici di detassazione per chi rientra oggi in Italia? Sì, allora rispetto alla prima modifica che era stata fatta, la detassazione torna al 50% ad esempio, mentre era passata al 30% con la legge iniziale del 2015. Viene estesa l'agevolazione anche ai lavori autonomi, ai lavoratori autonomi che erano i grandi esclusi insomma dalla nuova legge, e in più si consente l'accesso anche ai cittadini dei paesi extra UE se fanno parte appunto dei paesi whitelist, e quindi sono ottime modifiche insomma. Infine Alessia, senza scoprire troppo le carte, che controesodati racconteremo ogni primo sabato del mese nel corso del 2017 a Giovani Talenti? Io spero che riusciremo a fare sempre una panoramica di varie casistiche come abbiamo fatto lo scorso anno. Diciamo che quest'anno mi piacerebbe molto puntare su storie proprio costruttive di chi torna per rimettersi in gioco, anche portandosi dietro famiglia e figli per proprio ritornare e creare una nuova vita in Italia, contribuendo con la propria professionalità, il proprio lavoro e il proprio entusiasmo a far rinascere l'Italia dei talenti, insomma. Grazie ad Alessia Marsigaglia, che ritroveremo prossimamente. Domanda di rito per Simona Moracchioli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Di prendere l'espatrio come un'occasione di crescita e quindi di non sottovalutare il fatto che, nonostante magari in Italia non si abbia trovato l'occasione giusta e quindi si parte un po' diciamo per necessità, in realtà l'Italia ti mancherà e dovrai venire a farsi, e quindi prepararsi insomma. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi fa il suo esordio un nuovo spazio in collaborazione con l'agenzia dell'impiego Eures. Ogni due settimane vi daremo dritte utili per andare a lavorare in Europa. A presentarci questa rubrica è Marinella Colucci, coordinatrice nazionale di Eures Italia. Si tratta di una rete che per quanto riguarda l'Italia vede coinvolti per il momento tutti i centri per l'impiego e le amministrazioni regionali. Per cui, per essere anche pratici, andando sul sito dell'ANPAL, della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in cui sarà incardinato l'ufficio di coordinamento nazionale Eures, è possibile quindi inserire il proprio curriculum o lato diciamo azienda la vacancy, per appunto mettere in circolo queste opportunità. Inoltre dal sito ANPAL, che è www.anpal.gov.it, è possibile accedere direttamente al portale della Commissione Europea, il portale Eures, quindi, in cui sono racchiuse tutte le offerte di lavoro e tutti i curriculum di tutti i soggetti quindi che cercano lavoro in tutta Europa, di modo che appunto i curricula siano visibili in tutti gli Stati membri. È fondamentale che per qualsiasi ulteriore informazione ci si rivolga ai cosiddetti consulenti Eures, gli Eures Advisor, che per quanto riguarda la rete italiana sono quindi in diversi CP, su centri per l'impiego, quindi in tutto il territorio italiano, e è possibile sempre sul sito dell'ANPAL vedere i centri per l'impiego che nelle diverse regioni hanno i consulenti Eures, quindi con tutti i contatti e i riferimenti. Adesso stiamo effettuando anche una formazione di circa 400 assistenti Eures, in modo quindi da coprire tutto il territorio italiano con questi consulenti, che quindi possono dare un supporto, quindi informativo, quindi anche per compilare il curriculum, per caricarlo sul portale, anche quello europeo, e inoltre proprio per favorire l'incontro domanda-offerta, quindi mettere in contatto coloro che cercano lavoro con i datori di lavoro stranieri. Questo appunto per offrire un servizio di qualità. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Torna oggi l'appuntamento, il primo dell'anno, con l'Idogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia ci parla di un interessante programma che permette di ottenere una doppia laurea tra Italia ed Estremo Oriente, uno strumento da non sottovalutare assolutamente in un'epoca così globale. Nella puntata di oggi parleremo di come ottenere una doppia laurea triennale in Italia e in Cina, seguendo un programma offerto dal Politecnico di Milano e di Torino in collaborazione con la Tongji, una delle più prestigiose università cinesi con sede a Shanghai. Il gemellaggio Poli Milano e Poli Torino e Tongji è stato inaugurato nel 2006 da Romano Prodi. Il Politong, così è chiamato, è la prima università italo-cinese che consente a studenti cinesi e italiani di conseguire una laurea triennale riconosciuta in entrambi i paesi. Qualche settimana fa ho conosciuto a Shanghai Anna Leidi, laureata a pieni voti in ingegneria meccanica con indirizzo in robotica. Anna ha conseguito la doppia laurea al Politecnico di Milano e alla Tongji e attualmente sta svolgendo uno stage di 6 mesi a Shanghai. Come funziona il Politong? Il primo anno si frequenta in Italia, il secondo in Cina con docenti prevalentemente cinesi, e il terzo anno di nuovo in Italia. Laurea al Politecnico, e per chi vuole conseguire poi la laurea triennale anche in Cina, un semestre aggiuntivo alla Tongji facendo uno stage o ricerca all'università. La richiesta si fa durante il primo anno e ha le stesse scadenze dei bandi Erasmus o di altri progetti internazionali. Ogni studente può fare domanda dalla propria area personale direttamente dal portale dell'università, quindi molto semplice. Al momento ci sono 20 borse di studio da circa 3.000 euro lordi che coprono una piccola parte del soggiorno semestrale in Cina. Comunque, dice Anna, il costo della vita è nettamente inferiore rispetto a Milano. Rifarebbe Anna questa esperienza? Sicuramente sì, ci risponde, nonostante abbia avuto alcune lacune, perché la didattica alla Tongji non è a livello dei due politecnici italiani. È stata un'esperienza che, dice Anna, mi ha aiutato a crescere e a scoprire una nuova cultura e affacciarmi al mondo del lavoro cinese. Da ultimo segnaliamo due link utili. Sul sito polimi.it cercate progetto Politong per maggiori dettagli sulla doppia laurea in Cina e in Italia, e su Facebook il gruppo Italia-Cina Polimi Association, dove molti alunni del Politong hanno condiviso la loro esperienza e hanno permesso ad Anna di trovare uno stage a Shanghai presso Asecorp. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. Un motivo per restare o tornare. E oggi vogliamo parlarvi di un originale motivo per tornare. Un piano urbano della mobilità, un lavoro di un anno e mezzo autofinanziato e regalato alla propria città per costruire una nuova città a misura d'uomo e immaginare un futuro sostenibile. La proposta è stata messa sul tavolo della politica da un collettivo di architetti under 35 con importanti esperienze all'estero, dal Giappone all'MIT di Boston, riuniti sotto il nome di Campo Marzio. Accade a Trento, città di origine dei 5 giovani che hanno deciso di tornare in Italia e riunirsi per lanciare una sfida: lavorare sul territorio e per il territorio.